Sono Riccardi. Ti sento molto poco. Dove... Ma che antenna stai usando adesso? Sei a livello QRN purtroppo, non ti copio, mettiti l'antenna che come si deve, mannaggia. Questo scende adesso con il portatile piccolino. C'è il segnale, segnali 2, ma non riesco a radio 0 perché ci copre il QRN, ma a me mi stai copiando. Arriva il segnale, richiamano, il segnale arriva, ma non ti capisco quello che stai dicendo. Sono in ascolto, eventualmente vuoi rientrare. Il segnale è sempre basso. Dovresti mettere l'antenna dell'altra volta, non so che antenna c'avevi, boh, ti copiavo, eh. Adesso, boh, non lo so, non ti copio. Già ci sono ancora, ya, però non ti scoppio. Ma perché l'altra volta ti copiavo bene, adesso non ti copio, boh? No, non ti copio, adesso aspetta un attimino, voglio provare a cambiare antenna, a vedere. Che cazzo sei ancora? Troppo non ti copio, mannaggia, mi dispiace. Mi dispiace, ti copio, sì, ti sento così, ma non riesco a capire cosa stai dicendo. Sto aspettando che rientri magari... come si chiama, il suo amico Roberto, sperando che si faccia vivere, perché lo devi dire roba. In questo momento sto provando le apparecchiature, il rosmetro per esempio. C'è un rosmetro che oltre a misurare le stazionarie, anche se non lo attacco al baracchino, mi segnala che sto uscendo, praticamente c'ha il misuratore di campo che diciamo muove una freccia quando sei sicuro di uscire, se non stai uscendo la freccia non si muove. Come mai non c'è nessuno in frequenza? Ma prima chi c'era? Io tutta la sera stavo lavorando qua per mettere un commutatore d'antenne in modo che non sia ad attaccare continuamente DMC da una parte all'altra. Adesso commuto e passo praticamente dalla gamma CB a quella dei radioamatori, cioè HF. Poco fa c'era un sacco di gente in HF, praticamente in 40 metri, no? E ci ho parlato pure, anche se c'era molta confusione. Adesso sono entrato sulla frequenza CB per vedere se si fa vivo qualcuno. Ma perché l'altra sera ti ricevevo, adesso no? Ti ricevevo bene, boh. Comunque aspettiamo che entri qualcuno, va. Adesso magari diciamo che faccio una telefonata a Roberto, se entra, se non ha impegni naturalmente. cosa hai detto? Ti dicevo, Riccardo, sento la voce sul fondo, però non capisco cosa stai dicendo. A me mi copia almeno. Mi se, magari nell'altra apparecchio ti copia, però mi tocca cambiare, accordare sui 27, adesso l'apparecchio è accordato sui 40 metri, quindi diventa complicato passare da passare alla 27 sull'apparecchio HF. Adesso faccio una telefonata a Roberto, almeno diciamo, mi dirà cosa stai dicendo, no? E Cardia ha telefonato a Roberto ma non mi risponde, boh. Stasera tutto tace, porca miseria. Dai Riccardo, vabbè, che fai? Tu hai già mangiato? E anche ho preso una pizza adesso, però c'è. Non lo so, magari qualcuno adesso è ancora a cena, qualcuno, perché molte volte il sabato c'è sempre qualcuno a casa, capita, magari qualcuno guarda la televisione, non lo so, perché sabato molte volte ci sono programmi più interessanti, magari qualcuno li guarda con la famiglia. Break da bracco. E beh, Giovanni. A Riccardino lo copio. Un attimo, sta parlando. Ricca, c'è Giovanni, dice che non ti ascolta. Avanti Giovanni. Ascolta, innanzitutto chi sei tu che non ho capito la voce? Ah, chi sono io? Cazzo, il più forte, il secondo più forte, dai. Ah, ma sei Roberto o no, cazzo? Ehi, allora che devo essere? Già siamo vicini, basta guardare il segnale. Secondo il microfono che usi, porca miseria, cambia voce. No, questo è quello che uso normalmente, il microfono, dai. Uso sempre questo qui, perché è diversa la voce. È un po' diversa, no, io sto terminando un quadro, quindi... sperando che rientri qualcuno e rimanga in ascolto. Cosa stavo dicendo? Ma tuo fratello quel microscopio lo prende o no? Telescopio, non microscopio. Guarda che il prezzo che ho fatto è pazzesco, comunque non obbligo manco lontanamente, perché a parte il fatto che è probabile ci siano altre lenti a Torral, ma non so come chiamano male, no? E... hai visto quanto costa? Fuebai costa addirittura 300 euro. Nuovo, minimo, da trasporto e tutto, costerà 350 euro. Quindi, però voi, per uno palastrofilo, ce n'è anche troppo. Ma non so se gli interessa, perché mi stava dicendo tutto il meccanismo, il tripiede è tutto buono, però non gli è piaciuto il coso. Comunque, tanto che ce l'ha riportato stamattina in officina, naturalmente tanto ci dobbiamo vedere lunedì, che mi porta Claudio con l'apparecchio. E non so se lo prende, bisogna chiederlo a lui, però non era molto soddisfatto, perché ha visto che ci sono state manomissioni dove c'è l'oculare. Ma è importante minimamente quello, cosa manomissioni. Manomissioni ci sono state soltanto per metterci, applicarci le macchine fotografiche e basta. Ma no, non è la minima importanza. Mi sembra che ciò appunto gli aggiuntivi, non vorrei sbagliare, per poter fare fotografie del cosmo. Ok, dai. Qui, ma Riccardo, tu l'ascolti a Giovanni? Ci stava parlando uno che forse è serbo, scusatemi, avanti. Vabbè, sta dicendo che è arrivato il commutatore dell'antenna. Scusa un attimo Giova, sto parlando con Riccardo. Che marca è? CTS sarà. Ma che colore? Azzurro, grigio, nero? Ah, della Prox, sì, già va bene, dai. Via, ok. Giovanni, l'hai ascoltato Riccardo? No, lo copio molto sul fondo, lo copio. Ma come mai l'altro giorno questa ragazza lo copiavo benissimo, adesso è proprio al limite della confessione, che tra l'altro io sono mezzo sordo pure, che affinai, e come faccio a tirarlo fuori? Boh. Riccardo, ma stai usando l'apparato quello nuovo o quello valvolare? Ok, dai, io ti ascolto quasi 9, se come segnale, radio tendente al 5, dai, 4 o 5, dipende, molte volte però c'è il disturbo, c'è un po' di propagazione. Giovanni ti ascolta a basso comunque, mi ha detto. Quando ti metti con l'antenna vedrai che la musica cambia totalmente, ti ascolteranno tutti bene, perché è una buona posizione, purtroppo quella è un'antennina, quella che c'è, tu tienitela sempre di lì vicino, magari di scorta, e magari un altro paletto piccolino per fare collegamenti per altre cose, dai, non la buttare con l'antenna. Te la organizzi bene, la vista la stazione mia, se la organizzi un pochettino ti fai di questi ripiani, tanto costano poco, hai visto come li ho fatti io, ci vendono da bricco, ma vendono delle mensole di tante misure, poi ci metti i piedini da bulonare sotto a vittare come ho fatto io, e vedi, e piano piano ti sistemi, ti metti a portata di mano tutte le cose che vuoi, il baracchino, se c'hai il commutatore, l'accordatore, quello della ZG, mi sembra l'ho visto in figura, l'alimentatore un po' più lontano magari per non disturbare, un paio di microfoni così ogni tanto cambi, un blocchetto e una penna per prendere gli appunti e poi vai alla grande. Non ho capito qualcosa? Come il tuo, è più 3B, il tuo c'ha quello a fare cromato, ma come microfoni sono praticamente identici, non cambia niente, quello tuo è un pochettino più evoluto che gli hanno cromato la cosa dove si parla. Claudio? Sì, no, c'ha le belle radio, c'ha perché in VDI.com ce n'ha tante di radio per tutte le bande radioamatoriali, ce le ha tutte, c'ha belle antenne, c'ha, diciamo lui è un radioamatore. Antenne di plastica, vabbè, l'ha fatto per ridere. Sei presente che le antenne di plastica non esistono, perché la plastica non è un conduttore, è un isolante. Deve essere un materiale conduttore per essere efficiente. Se tu lo metti in plastica è un isolante, non funziona. Probabilmente l'ha detto così a livello di ironia, per dire c'è un'antenna di plastica, come per dire che non funziona. Un attimo. Avanti Giovanni, sta uscendo male, mi sta avanti. Chi sei? Aspetta, no, no, siccome c'ho un forzatile sui 27, no? E caso strano non ti sentivo in tutti i canali. Qui ci sono tre canali, 8, 11 e 1 mi sembra. Ascolta, mettiti sul canale 8 che voglio vedere se mi copri con questo portatile qua. Un attimo Riccardo, sto facendo una prova. Attento compagno, se scucci l'Italia. Siamo rientrati Eric. Che cosa? Eravamo su canale 11, canale 12 e canale 8. Sì, c'è propagazione, adesso non ho capito che lingua stava parlando perché era con un eco questo. Attento, do you copy Italy? Break Italy? Vabbè, parla Ricca, tanto non c'è nessuno. Guarda, ti sento male perché c'è questo disturbo, mi sta facendo, ti sta dando fastidio. Ha detto ripeti piano piano Rica, non riesco a capire, o ti avvicini più al microfono. No, no, no, no, tutt'altra parte, giù la ordino, anche se è buona per il camionetto, l'ho preso un paio di volte, vado giù in via, via dei Mille, angolo via Montegrappa, le fa molto buone, c'è un amico eccetera. Bracco forse è in ascolto Giovanni, chiamiamolo Giovanni, dai, che mi piace di più, Bracco è il nome di un cane, una razza di un cane non mi piace. Bracco è una razza di cani da caccia. Aspetta, c'è qualcuno sotto, avanti che vuole entrare. Chi sei? Ciao Claudio, ti sento finalmente bene, dai, che apparato è? Bella, bella, bella radio. Ti ascolto 9 più 10, ma ti stai aiutando o sei pulito? Un tornado, tornado lo stava cercando qualcuno, comunque Riccardi, ma in cambio di che cosa glielo volevi dare Riccardo, dell'ala 48? capito, se non è andata in porto lo scambio con Claudio, si è proposto lui di darti un Tornado 34S in cambio del Polmar omologato. No, ma ha detto infatti se non andava in porto la situazione. Sì, sì, sì, ok. Aspetta, la guardo com'è questo 34S, voglio capire, non me lo ricordo. Mi ha detto che ha già preso accordi con Claudio, per cui non fa più il discorso, però il Tornado, adesso me lo sto guardando, lo stava cercando qualcuno, se eventualmente volete fare degli scambi oppure date un'offerta e si vede un po'. Ma funziona bene, perfetto. Ma di fretta in base, solo due ne avete voi. Sì, sì, è una bella radio quella. Excalibur, Colt Excalibur. Aspetta, c'è qualcuno che sta parlando, non mi sembra italiano. Attention please, do you copy Italy? Sembrava in banda laterale questo. Attention please, do you copy Italy? Claudio, riprenditi il mic. No, no, qua già sta arrivando forte, quasi Santiago 9. È sopra Riccardo, più o meno lo stesso segnale. Dai Riccardi, parla come prima, col microfono più attaccato alla bocca, così ti sento meglio, Riccardo. Se no qua il QRM ti disturba. Sì, sì, no, lo conoscevo, però non me lo ricordavo, ne uno simile, io ho Lafayette, aspetta come si chiama, che non l'ho mai usato, una volta solo l'ho usato, ne ha preso tanti baracchini, Lafayette, non mi ricordo, comunque molto simile a quello, probabilmente la stessa radio, solo è marchiato diverso. Sei sicuro che ho omologato quel baracchino? Ok, meglio così, perché non ero sicuro di quel fatto io. Dimmi un po', il microfono c'hai quello palmare sempre, Riccardo. E tu invece Claudio, cos'è? MB+4, cos'è che stai utilizzando? Claudio, che microfono stai utilizzando? No, già l'ho visto, me l'aveva fatto vedere tuo babbo un tempo fa. E c'era, mi sembra che c'era Claudio, Linoit, una volta me l'aveva prestata a me, se non sbaglio. C'ha la toppalante davanti, o sbaglio? E c'ha la toppalante davanti, se non sbaglio, confermo. Infatti mi ricordavo era 23 canali, non era 40, dai. Però già è una bella radiolina, dai, già va bene. Vabbè, dai, tanto siamo quattro gatti, sarebbe stato meglio anche. Non so se ce l'ha, quello è solo AM, cioè non è a SSB, non ce l'ha la banda laterale. Il pace che c'ho io invece c'ha anche la banda laterale, c'ha un bel suono col baracchino, quello base, bello grande, mentre lui sì non ce l'ha le bande laterali. Il pace c'ha l'orologio, c'ha il rosmetro separato, wattmetro, c'ha tre strumentini, dai, è una radio, un bel apparato base di vecchia generazione, però funziona discretamente. Sono tutti e due uguali, e che problema c'hanno? No, sono belli, insomma, che mi piace. Io dalla Sommercan c'è un apparecchio HF vecchio, il Digital, c'è tu uno Digital, non so se lo conosci. È una bella radio, bella grossa, è una volta e mezzo al 4,40. E lui se c'ha le fiancattine in legno, davanti c'ha il frontalino con gli strumenti verdi, 40 canali, orologio però non ne ha quello lì, senza orologio, c'ha tre strumentini verdi. Però il patch è migliore, in modulazione è molto meglio il patch, mi piace di più. E poi ne ho altri due stazioni base, un Multicom che è quello il più bello che c'è, un apparato che sembra un HF come dimensioni e come estetica, grigio, moderno, tutto tipo plastica, manopolone grande, c'ha tutte le funzioni possibili e immaginabili per andare in 27, e più c'è un altro Intec base, quello funziona discretamente, quello c'ha il coso, il beep, Roger Beep, c'ha altre fesserie, però il Multicom è un altro tipo di radio, molto ma molto più selettivo, più silenzioso, non sarà un granché come modulazione perché si deve abbinare un microfono e salire molto di livello, se no non esce. Un Roise con l'FM, e quale c'è dell'Intec stazione base? E tu? Allora c'ha frequenzimetro, c'ha solo il canale, ma quello nero che c'ha l'altopalantino incorporato davanti, quello lì è. C'è il modello, aspetta quello che c'ho io, scusa un po', c'è il 3104F, ce l'ho io uguale, te lo stavo dicendo io, sembra un mio VHF marino che leggermente è inclinato, rimane così, e c'ha poi i tastini sotto dell'up down, quasi verde trasparenti, dai, sembrano in verde. Che è avanti, Riccardo ci sei ancora? Ci sei Riccardo? Tu Claudio ci sei? A proprio vicino a te? Come no? Saluta, allora. Ciao Gianni, mi hai sentito, anche se non ti ho sentito, dai, è sottofondo. Stai testando, così è? No, sta andando benissimo, una bella radio, complimenti. Non è quelle solite radio che ci avete molte volte che troppo amplificate e distorte, questa è una radio salottiera, pulita, chiara, limpida, come piace a me, non mi piacciono le radio fastidiose, ti stanchi le orecchie, troppo rimbombanti, questa è naturale, pulita, come sia la voce qua vicino a me. E aspetta se c'è ancora Riccardino, che forse si è allontanato. Ci sei Riccardo? Ok, se parli col microfono attaccato alla bocca, Riccardo ti sento benissimo, Radio Cibe, quando ti allontani un pochettino sento il QRM che ti sovrasta. Questi sono in banda laterale, senti al vuoto arriva. Ma tu non lo ascolti a Riccardino e Claudio? Sì, ma me ne sono accorto anche io. Lui la notte probabilmente, secondo me, c'ha il cavo leggermente lesionato, qualcosa, non lo so, che c'è dell'umidità, per cui perde di coso, di conduttanza il cavo, trasmette magari cambiare un po' di conducibilità, non lo so, per cui perde molto di segnale. Allora, lui sta uscendo con la Mini Grand Plane, c'ha un palo di circa 6 metri più o meno, dai. Però prossimamente, tra poco, gli arriva l'antenna nuova alla 5 ottavi, per cui si farà sentire alla grande, sono sicuro. Poi gli buschiamo un microfono amplificato, anzi ce l'ha già, perché mi ha dato il TAN nel suo, gli devo vedere tramite il mio, vedere quali sono le interruzioni, così se riesco a sistemarglielo, c'è anche un microfono di qualità. Sì, è la nuova Mantova che sostituisce la Turbo, si chiama 827, c'ha 16 radialine anziché 8 come la Turbo, le prestazioni dicono che siano leggermente superiori, ma tanto sono più o meno la stessa e non ce ne accorgeremo, però almeno c'è una 5 ottavi di 7 metri di antenna, più 6 di palo a voce. La sale per un ricevitore, non capisco. Perché su questa banda non è consentito, magari se no me l'avrei messo dove abita mio fratello il ripetitore, lui è in cima a Monte Bianchino dove c'è quella torre igrometrica dell'acqua che si vede da tutte le direzioni, tu da quando vai a Sentino la vedi da Sentino quella torre. Cosa hanno fatto? Non ho capito. Non lo so, non l'ho sentita questa informazione, dai. Basta. Ok, vai Riccardo, prenditi. L'ho comprato anche io, subito dopo che sono andato via a TUM, io sono andato alla GBC e li avrà terminati, ne ho preso due, anche io devo, domani se riesco la metto sull'antenna, dai, vediamo un po'. Ma contrassegno l'avete fatto arrivare o l'avete fatto già a pagamento? No, vabbè, ma molte volte lo sai cos'è, i corrieri magari se devono fare un altro viaggio fanno un unico pacco anziché andare, sono apposta per te, magari dice dai devo fare anche uno domani, li faccio tutti e due domani, poi noi siamo in Sardegna, il sabato e la domenica non consegnano, ci mettono minimo 48 ore, per cui tu sei ordinata oggi, ti arriva dopo 4 giorni, la media è quella, te lo dico perché oggi è arrivato un pacco a me, roba d'officina, è stato spedito mi sembra martedì ed è arrivato oggi. Che già ti arrivano, ti preoccupare, tu predisponi tutto, inizia a farti già le saldature per il coso, per il filo, per il cavo, e in modo, fai in modo che siano ben fatte, tuo babbo ce l'avete il saldatore, tutto ce l'avete. Dai, predisponi tutto, il cavo cerca di farlo passare bene dentro al palo, non fare troppe curve strette, di modo che funzioni tutto bene. Ci metti i vari del sigillante sopra se ci avete grasso di vesellina prima di entrare, in modo che se ci cade dell'umidità non succeda niente, poi cercate di metterlo nelle migliori condizioni, sigillare la parte dove attacca il PL, la parte di sotto li metti del nastro bello stretto vulcanizzante in modo che tra PL e cavo non si formi dell'ossidazione. Claudio, che cavo ci avete voi in antenna? Claudio, sì, va bene, anche io ho preso quello lì. Nella Mantova c'ho quello 1000, quello militare, adesso ne ho preso 18 metri, me ne ha dato qua un amico, sempre Looper, modello alla versione U, che è buono lo stesso, dai. Come sta arrivando di segnale con quel baracchino, con quello smitter, Claudio? Non mi porto sporcizia, cioè quel REM, pulita, radio perfetta. E anche ascolto quasi 9 più 10, radio 5. Eia. No, la spinge, poi su questo tipo di frequenze va più che bene. Penso che sia tra i migliori in assoluto, sono due o tre che vanno bene, questo è tra i primi tre. Sì, no, lo so, ma me ne accorgo poi quando attaccano, è inutile poi utilizzare altri tipi di cose, di apparati magari anche più moderni, più sofisticati, però qua in 27 sono questi quelli che vanno, questo tipo. Eia, ok, vediamo Riccardino, avanti ancora a te, riprendete il mic. Non l'ho controllata, l'ho vista così, ho mosso il filo, secondo me si è staccato il cavetto centrale, quello dove attacchi in piede dalla cima, l'hai visto quando l'allunghi con l'antenna lì, quando c'ho tempo, ma era ferma, sarà stata ferma, 10 anni con l'antenna, tieni presente, almeno. Secondo me ti ho detto che tu stavi uscendo con un pezzo di filo elettrico, non ne avevi di antenna e col cavo e basta stavi uscendo, perché io ti ripeto, quando l'ho portata giù al mare a Platamona con l'antenna lì c'avevo uno e due di stazionarie ed era perfetta, senza accordatore né niente, pulita, infatti avevo tolto il dubbio prima di provarla, ho detto aspetta che vediamo, c'aveva le stazionarie a uno e due, era una bomba, era Grand Plane, la mini Grand Plane, quella che c'hai tu non era neanche vicino come rendimento, molto ma molto migliore questa, vabbè che è più grande fisicamente, e poi come rosso, come ritorno, ne aveva molto di meno da Grand Plane. Okay. Guarda, tu adesso quando ti metti quel cavo 213 vedi che la radio, oltre che l'antenna, cambierà tantissimo, perché secondo me quel cavo che c'hai tu c'è da avere qualche problemino. Non è possibile che tutte le notti tu, come c'è un po' di scendere, si abbassano le temperature, magari c'è un po' di umidità, cali di segnale, soprattutto a lunghe distanze. Qua diciamo non è evidente, però quelli che sono più lontani ti ascoltano basso, anche Giovanni, vabbè, lui non c'ha un'ottima antenna, ma ti sentiva basso anche lui. A proposito di Giovanni, vediamo se c'è ancora, così lo facciamo salutare a Claudio. Giovanni, ci c'è ancora? C'è qualcuno in banda laterale sotto. Riprendi il microfono, Claudio. No, sta usando la mini grampia, perché quella che l'ho dato io, probabilmente, secondo me è così, si è staccato il cavetto centrale, quello che va sul polo freddo, sul polo caldo. L'ho visto che si muove un pochettino, non l'ho sfilato completamente, secondo me ha mollato la saldatura, ne è uscito. Perché non è possibile che le stazionarie, dice, gli arrivavano a rosso, sul rosso, oltre i tre. Sì, è fondamentale, non bisogna fare sulle cose, mai economia, soprattutto se parliamo di antenne, di cavi, eccetera. Sempre utilizzando roba di qualità, le saldature ben fatte, isolate, sigillate, messe di prodotti protettivi contro l'umidità, la condensa, eccetera. E vedi che l'antenna ti dura decenni, non mesi, decenni. No, sta andando alla grande e poi mi stai dicendo non ti sta aiutando, io ti ascolto perfettamente, radio 5, 9 più 5 il segnale, perfetto, niente da dire, considerando che tu sei molto nascosto, diciamo, verso la mia direzione, perché c'è tutta la collina di Scala di Giocca, eccetera, io sono sopra di te come altezza probabilmente, credo, almeno non lo so, più o meno saremo alle stesse coppie. Quanti metri è la tua posizione? Sì, ma lineari, lasciamoli stare dove sono, dai, non c'è bisogno, dai. Una volta che ti ascolti, che cavolo te ne frega, anziché arrivi 9:20, 9:30, importante la radio, chi conta la radio, anche se c'è il segnale basso, la radio è chiara, non ce ne frega niente, gare non le dobbiamo fare. Sì, infatti la maggior parte, il 90% di tutti gli amplificatori che ci sono qua in 27 sono dei giocattoli, hanno saturazioni, rientri, eccetera, eccetera. Se c'è un bel amplificatore valvolare di vecchia generazione, costruiti con alimentatori di qualità, valvole fatte in un certo modo, circuiti fatti con componentistica di qualità, a quel punto sì, ma costerebbe tanto produrli adesso, per cui, o a meno che non c'è un apparecchio, uno di quelli HF che sono... quelli però costano un sacco di soldi, non puoi paragonarli poi a uno di questi ZG, BV131, 10757, cazzo, sono tutti giocattoli, sono apparati trasversalizzati che non valgono niente. Ma io forse di mentalità sono resti io a fare queste cose qua, non mi sono mai piaciuti, io neanche me ne ricordavo ciò che me l'hanno regalato, mio zio me l'aveva dato, ero convinto che fosse un VHF amplificatore, invece è per la 27, è un B150 mi sembra che sia, mai usato e mai visto, l'ho trovato dentro il cassetto, adesso come c'ho tanta roba, intanto mi regalano qualcosa e ho visto questo amplificatore. Ehi, anche Riccardo non ce l'hanno. Che cos'è il vostro, Riccardo? E l'amplificatore che marca è? Non c'è bisogno, una volta c'è l'antenna, non mettere niente, lascia perdere. Ti ripeto, chi conta l'antenna non è la potenza, è l'antenna, il guadagno dell'antenna. Utilizzando in quell'apparato quelli a jack, non a, con i pin, con i connettori a 4. me, quelli di vecchia generazione, il coso, l'Alicraft, quello che ho io è così, c'ha il jack e poi cosa c'ho? Attacco a cuffie, mi sa pure questo Sommer che a me con l'attacco tipo jack, dai. Ah no, che scemo, questo qua non è un trasmettitore, questo digital, 101 digital è un ricevitore, io ho convinto fosse un trasmettitore, invece è un ricevitore questo Sommercamp 101 digital. Ero convintissimo che fosse un trasmettitore, lo sai, adesso mi sto guardando gli attacchi, uno è cuffia e l'altro registratore. No, no, non è così, stavo dicendo fesserie il mio. Anche il Trio, se lo fa, cercati su internet questo modello qua, Trio, come si chiama? Claudio, forse tuo padre l'ha avuto, valvolare, una bella bestia. Trio, modello 9R59DS. Cacchio Collins sta dicendo la Rolls Royce degli apparati. E le loro sono belle radio, la Drake, lo stesso fanno delle belle, l'Alicraft fanno delle belle cose, dai, i WitKit lo stesso, ce ne sono tanti di macchine, ma i Collins stiamo già parlando di cose di altissimi livelli, cioè se è presente che i filtri Collins li montano sui apparati della Yaesu, della Icom, della Kenwood di altissima qualità, c'hanno i filtri Collins, perché è il top. Che? Claudio l'ha data via, penso se ne sta mangiando le mani, e la linea Drake è un prodotto molto ingombrante, lui dice tengo quello che mi serve, lui c'aveva la linea Uniden pure. Ma lo sai cos'è il problema? Sono apparati molto vecchi e anche se funzionano perfettamente i vari cose in banda laterale funzionano sempre bene, però uno vuole una cosa veloce che prendi, schiacci e parli, che tirano potenza immediatamente per comodità, una cosa funzionale, veloce eccetera, non devi stare accordare a non fare niente, però la linea Drake è sempre una bella storia, anche scenografica. Sì, ormai ci sono tecnologie, tutto transistor e ad alta resa, alto guadagno, gli amplificatori eccetera, non è più come prima, ingombranti, alimentazioni esagerate, pesi da Caterpillar. Ok, vediamo un po' Riccardino, già le 11 si sono fatte se non sbaglio. Vai, parla sempre vicino al microfono così ti sento bene, ti ripeto c'è il QRM molto alto e tu sei leggermente sopra, se abbassi un po' la voce e ti sento coperto. Anche io rimango qualche minutino e vado via, dai, ciao Riccardo, ben sentito, salutato Babbo, buon sonno, dai, tutto quello che vuoi, buona giornata per domani, vai Claudio per Riccardo. Comunque lo tiri fuori abbastanza bene, dai, sono contento, considerando che situazioni precarie Claudio riesce a tirarlo fuori. E figurati, riesce ad ascoltare la muro, considerando che lui ha un'antenna che non vale niente, e aspetta quando mette la 5 ottavi, sarà un bombardamento, perché c'era Natalino, lui addirittura è più su di Natalino, Natalino si faceva sentire, era uno dei segnali più forti che arrivavano qua. Figurati lui adesso, vabbè, magari la radio che va a Natalino era un po' più performante, dai, stiamo parlando di cose diverse, però io sono sicuro che anche lui si farà ascoltare bene. Sì, sono sicurissimo, poi c'ha una bella posizione, lui c'ha 6 metri di palo, per cui più altri 7 metri c'è l'antenna, a voglia. Sì. impossibile così, infatti non aveva neanche una terrazza vera e propria, infatti deve mettere a fianco alla finestra, c'è una specie di poggiolo, mi ha detto, non può neanche mettere l'antenna, deve mettere una piastra attaccata al muro, e voleva mettere la Gran Plena, ho detto lascia stare, a quel punto ti metti una Ringo, oppure come si chiama la Ringo? Una Boomerang, ho visto c'è anche da Fusaro, c'è una Ringo, ne aveva un paio di antennine così, non troppo grandi, e così Mario si fa sentire anche, io quasi l'ascoltavo bene, arrivava quasi 9-10, la radio era perfetta, 5, non posso dire niente, però non sono tutti che l'ascoltavano, quelli della zona del monte, di lì erano un po' difficoltosi, grazie a Dio, no, per vantarmi, io ho un'ottima posizione, più di me Claudio, però io mi do da fare, dai, sono uno di quelli che riesce ad ascoltare più o meno tutti, soprattutto le zone di Alghero, tutta la zona di Perfuga, Soschi, tutta quella zona lì, Ozzieri, io ascolto tutto bene, anche dietro, un po' limitato verso Castelsardo, Badesi, lì sono un po' chiuso rispetto a quelli della zona del monte, però tutto Porto Torres, Alghero, Tintino, tutta quella zona lì, la costa la faccio tutta bene. Claudio è ancora più in alto di me, infatti lui non ne ha bisogno di palo, lui c'ha già il palazzo alto, io penso che a me me ne prenda una quarantina di metri di altezza rispetto al mio livello, poi vabbè anche io non ho ostacoli, non ho nessuno che mi copre, però lui è ancora più in su di me, per cui ne ha ancora di meno di ostacoli. Claudio è quello che ti arriva più forte sicuramente, chi c'è che ti arrivano? Quelli di Alghero? Alghero ti arrivano forti o bassi? E coso, come si chiama? Aiutami, Antonello Barracuda, come ti arriva? Quello è il più forte di tutti che ti arriva. E vabbè, Claudio si aiuta anche un po' di più rispetto a quello là, dai, dobbiamo considerare anche quello. Ma come vicinanza è più vicino Ussi che Sassari, no? Vabbè Claudio c'ha quel canalone dove lui è tutto aperto verso di te, cavolo, arriva che è una meraviglia. Io c'ho ancora un po' di collinetta prima di entrare a muro, su lui invece c'è il canale di Scala di Gioca, c'era apertissimo. Io te l'appoggio. E Antonello Pompogno come ti arriva? Anche lui dovrebbe schicchiare forte. Magari, c'ho la montagna qua io. Venga montagna, ti avrai meno di me di montagna tu. Antonello ti arriverà molto forte, no? Dopo di Claudio sarà lui il secondo. Antonello è che c'ha l'antenna bassa, sennò schicchiava forte, forte e forte. Eia. E Antonello, se si solleva l'antenna di un 6-7 metri, forse è pure più in alto di Claudio, o se la giocano vicino. No, non parliamo di potenza, io parlo a parità di potenza. L'altezza di Antonello se la gioca con Claudio, se si mette un 6 metri di antenna o sbaglio Antonello? No, no, se io me ne salgo su al centro ecologico me ne faccio la canna a tutti. Questo è poco ma sicuro perché c'ho tutto di fronte. Osilo, c'ho aperto anche la zona delle come si possono dire i tempi, Olbia, eccetera, eccetera, capito? Ma purtroppo sono tappato qua. Se avessi trovato una villetta lì, mi sarei andato lì a abitare. Questo è poco ma sicuro. Lì al centro ecologico, mi c'è la sala di gioca, muro, sorsi, tissi, e lì avrei schicchiato forte, anche con 4 metri di palo. Lo sai, allora mio fratello dove abita? C'hai presente tu a Montebianchino con la torre bianca che si vede dell'acqua? L'hai mai visto Antonello? Vai, ritira di vai Antonello. Mi devo ritirare, cazzo, se avessi abitato anche tu di lì, non dimmi che non è alto, aiuta, è più alto di noi, aiuto. Ciao, ben sentito comunque Claudio. Sono più lungo. Buonasera a tutti, dai, sono entrato solo a salutarvi. E non pensare, dal mio palazzo centro ecologico non si allontana molto, non ti preoccupare che non mi fa assolutamente niente. Va bene, divertitevi, dai, mi sto guardando, ciao Darwin. Claudio, ci vediamo domani mattina al caffè, ciao a tutti. Ma dove abita Danilo tu? Claudio, ci sei mai solito a casa di Danilo? Ah, io quella torre dove abita Danilo, così chiamata la boccia di leva, ho cambiato 4 volte le frange, quindi figurati se ci sono salito. Quello lì no, Danilo abita di lì a fianco, appena un po' più avanti a destra. Io lo so dove abita Danilo, non ti preoccupare, ci sono anche andato. E di lì io penso che zone alte come quelle non ce ne siano nella zona di Sassa, ma che non sali a usi. Claudio. Sì. Ma no, non pensare che sia... Guarda, io ho misurato da Marco, sono a 322 metri a livello del mare. Lì dove abita Danilo, proprio in quella zona lì, perché abita in via Pietro Nenni, abita mio cognato, è 321, quindi non pensare che sia molto più alto. Dimmi Tino. Sì, sto guardando la televisione, un minuto solo ti dedico, proprio un minuto. Anche me, scusate, arrivo subito, cari vinti, dai. E cosa mette a Claudio via Pietro Nenni? Ma non so dove abita Danilo, ti ho detto a fianco a quella torre igrometrica. Già lo so dove abita, ma non pensare che sia molto più alto, ti ho detto. Non vi fate illusioni, non... Io abito a 320 metri in via Milano, la punta dove abito io, ok, poi ci sono 40 metri di palazzo, quindi non pensate che sia molto più alto dove abita Danilo, ti ho detto. Danilo abita nel punto più alto di Monte Bianchino, se tu vai a Trentino vedi quella torre da Trentino, è l'unico punto di Sassari che si vede alto. Se tu vai a Capo Falcone vedi il mio palazzo, perché io vedo Capo Falcone. Vabbè, lascia perdere, ti ho detto, che non sono molto basso. Dai, mi sposto un attimo, poi chiudo. Eia, comunque c'è anche Tino. Ciao Tino. Ciao, vabbè, ciao, sono sul canale 20 in ascolto, poi vengo qua. Vabbè, tanto io adesso sto staccando, dai. Ok, saluto a tutti, ciao Claudio, ciao a tutti e due Claudio, Claudio Spalviero, Claudio Chioda Ruginito, ciao Tino e ciao Antonello Pompugno e tutti gli eventuali amici qua in ascolto. Io vado in corretto, eventualmente ci sentiamo domani se coincide. Ciao ciao a tutti. Ciao Robert, ci sentiamo alle prossime salutazioni. Ebbene, Fabio. Ma già l'hai sentito sotto, tutti io ce l'ho più alto, io ce l'ho più alto e io ce l'ho più lungo, così imparate. Io la zona di coso di... che abita vicino a casa tua, che la so, la villetta di... che è morto anche, che conosceva tuo padre. Come si chiama, cavolo si chiama? Professor Brandis, per esattezza. Lì c'è la villetta, proprio lì sono da centro ecologico, e quando siamo trovati ho detto a mamma, ho detto vendiamo la massata, che me la voglio andare a riabitare, e dice, no, non vedo niente. Adesso l'hanno sistemata, poi a fianco c'è quella specie di caseggiato che ancora non ho venduto. Non so se è un caseggiato come per casa o per... vediamo, anche lì è bello come quel posto. Però se ti metti lì distruggi un bel di gente di là sopra. Anzi un punto migliore, sai dove? Proprio all'interno. C'è quella... c'è presente quella villa che c'ha il... cioè i cancelli tutti in legno. Quello è il punto migliore che c'è. Perché abbraccia, in pratica, se è al centro, abbraccia la zona mia e la zona del monte. Devi pensare che questo Pasqualino, il Corribabbo, praticamente io ho fatto di tutto perché non si portassero da qua, perché in teoria dovevamo stare vicino in quella casa, figurati. Peccato che era molto quelli... si parlano di quello di Brandis che l'ha venduto un altro, se no ci avrei pensato io a prendermela in cambio di questa magari. Quella è stata bella davvero come casa, la verità, sistemata bene, è stata veramente bella, in un punto buono, alto, sotto di te l'unica cosa che c'era è la cimenteria, quindi se sbagli poco se vuoi, c'è la parete che cobra? Vabbè, io mi accontento di un antenna che mi ha regalato mio ex cognato, che me lo metto nel terrazzino, così a Roberto gli sballo lo smitter finalmente, lo deve portare a riallineare quell'apparato. Allora, già lo credo. Ma adesso guarda, se dica cosa devi fare tu, appena sei a posto ti salvi un'antenna sopra dove era prima, a casa di trovare quella che c'è di fronte, mi andiamo con la mola, tagliamo il palo e tutto e la scendiamo con la corda, poi da lì stesso ce la portiamo su con la corda nel palazzo tuo, non dobbiamo smontare un cazzo, neanche variare. Poi che a Danilo gli ho già detto che non gliela tolgo neanche, sai cosa facciamo? Mettiamo qualche metro di RG8, se ce l'ho anche lì, pensa che c'ho l'RG8 giù in cantina, l'ho visto, non so nemmeno quanti metri sono, direttamente lì all'antenna, BV131, così esco con 4,5 e vi schiaccio tutti pronti. A me tu mi puoi fare solo un brigliotto, tu e tutto Sassari. Qui che vi metto con la direttiva, mi Claudio, stai attento. Sì, ma la devi mettere, io ce l'ho già, quindi non mi costringere a accendere il controbox e puntartela sopra, incendiarti quel cicafuso che stai usando. Ascolta, quello bene, cosa faccio io? Mi faccio una batuccona, mi metto i piedi sul petto con la portante nascosta. Mi fermo solo girando l'antenna quando vedo il fumo che c'è a casa tua. E 40 anni che dite così, ancora non siete riusciti ad abbattermi, cazzo. Vergognatevi! Ma io sono girato la scena da sé. Ma che è caro, non lo sento? È dalla finestra che c'è fumo, ma sto veramente immaginando che ha fumo. Per carità, che fatti ci vogliono, non parole, siete 40 anni che mi dichiarate guerra e siete tutti dei cadaveri, siete buoni solo a parlare con i vostri vicini di casa e poi non arrivate da Sassi alla Randriga. Chi è Claudio? Mi devi tenere mutande, che metto in moto la macchina, andiamo e gli facciamo sulla ferma il telefono, dai, che prendo il portatilino. Ma chi a me? Alla fine di cose gli altri ventimi. Meglio non ci va sotto casa sua, sta tranquillo. Per ammazzare a Claudio deve andare in via di Sento, dove abitava Roberto, per esattezza, di fronte a casa mia. L'unico punto alto è quello, è più alto di casa di Claudio, la verità. Quel palazzo di 8 piani, angolo via Principessa, via Principessa, no, non via Principessa, ma via l'altra. Di fronte alla... come cazzo si chiama, dove visitare la cazzo c'è, di fronte alla, vabbè, già mi hai capito, di fronte alla piazza del manicomio, lì c'è una palazzina che è un bel alta, quello è l'unico che passava, a me a Claudio la verità, perché era un bel alto, figurati tu, poi vabbè, non l'ho fatto più modulare perché mi subava la televisione, adesso non mi ricordo, ma come era TV, là. Roberto si chiamava... Franco, non mi viene più in mente il nome, quello già usciva forte, c'era l'unica antenna, la Firenze 2 caricata, verde, con tre radiali, che gli aveva venduta, come si chiamava, quello che c'aveva il negozio in via Rockefeller. Ma chi è, perché? Qua non arriva. Mi ha detto che fine ha fatto dopo. Quando è arrivato il TL922, la stessa fine che ha fatto Daniela con fratello, Antone, non te la metti più. Non ci vuole un grande palazzo per distruggere Claudio Sparvero, ci vuole grande attrezzatura, capito? Voi siete tutti dei puffi, tutti dei puffetti che camminate sotto il mio dominio e questo lo sapete. Non avete niente da potermi dire quello che io faccio, perché vi distruggo tutti, vi anniento, tutti, dal primo sino all'ultimo, siete delle mosche. Attenzione, padrino, mi serve una mano, padrino, dammi 6 kW per cortesia, padrino. Sì, carissimo, dimmi. Penso che non arriva perché. Sì, li grebbi tutti, tranne Antonello li passi tutti. Pensavo che non arrivavo, ho detto chi è questo che sta parlando, che è basso, qua non arriva neanche, tu sei 9.30, cazzo, buh. Tutti appesi sui cigli con chi ti antenne di gomma, antenne di plastica, portatilino, ma dove volete andare? Ma con 40 anni di radio che ho, cazzo, ho distrutto tutta l'isola della Sardegna e ci ci vuole Sassari, questi quattro puffetti, a dare fastidio al numero uno della Sardegna, la torre di controllo. Ma non vi vergognate, eh. Torre di controllo, cosa va? Chi è questo? Questo è Fabio Ottino. A me mi chiamano torre di controllo, certo. A te cosa ti chiamano? Torre della Landriga. Allora pronto qua, che non c'ho antenna. Ciao Tino. Metti l'antenna e poi facciamo le prove. Metti l'antenna, bella mettila però, mi Fabio. Devi metterla bella però, grande, alta. E poi facciamo le prove. E te la taglio da sotto, mi scende da sola dal pianto.